cassette, no? Io non la caccio, una cassetta di attrezzi, che la uso molto spesso, e la faccio usare anche molto spesso, però usiamo, non vedo la cassetta. Sì, sì, non ti preoccupare, non manca niente, non mi interessa, se ti serve qualcosa prendila. Però se hai dato una chiave piena di grasso, ogni età, poi tanto se lo uccidi già, uscimela di 2 grammi, ti serve di chiave, non ho una 3 colpi terra, praticamente ci ti allunga. C'è chi la vuole, perché me la deve ritornare, poi c'è qualcuno che addirittura ti dice no, provo la prima officina, mi meglio già di sabbinghirosa, ti rimangiamo di 2 rata di posa. Come si vede che una persona, guarda, quelle persone lì che sono, guarda, nate col pingolo, volevano col pingolo, poi nulla va. Comunque salutoni, Antonello, ben entrato. No, ma è così, Tony, è così, no, ce ne bisogna solo delle persone, per carità, guarda, per carità. Io in tutti gli anni che svolgo questo lavoro ne ho visto, guarda, tutti i colori. E ne verrò, ne vedrò ancora di tutti i colori, guarda. Ma quando magas, ma un po' di pulizia, non guardo a nessuno, guardo la pulizia, cazzo, ma chi si preoccupa, porca azione, cazzo, tutte le palette cagate, cazzo, mia madre, cazzo, la palette mia lucida, cazzo, mia madre, andiamo a vedere la giunta piena di calzine, ma io cazzo qua lavoro a queste cose, scusami, tiro, ho questi ferri qua, ma non te ne fa la vergogna, Tony, così, ma io, cazzo, sì, una persona più pulita a cavolo. Buonasera, Dies. Vai, che vado a bere, ne approfitto, riprendi, cambio. Ma se ti chiedi, non c'è problema, c'è solo qua. Tizio, aspetta un attimo. Troppo. Ecco. Sono calato, meglio mi senti, Anto? Ehi, scatto, stai uscendo dal 4, adesso mi dico, tu si non c'aveva. Perché mi sono entrato, c'avevo la palica 50, poi adesso, 7 da 120, capito? Quando mi si va a salire così, ho preso di diluito subito. Beh, adesso sei più pulito, là. Sei più pulito come voce, Antonio. Capito, ma prima la palica era bene, stava un palico, boh. E quando sali più 120, è logico che fa così, in saturazione. E se quando sono saturato, lo stavo per dire, meno male che sei accorto da solo. E c'è un po' più di controllarmi sempre quando parlo io. L'ho avuto vicenda quando sono andato a Baracchia. Quando ho detto che usavo 4 apparecchi, uno di gestione, uno di trasmissione, l'altro da una parte. E quindi c'è l'orecchio per le cose. Mi raccolgo subito i difetti. Se non è già fuori frequenza, a parte che col baracchino normale non ti rabbizzi, perché non te ne accorgi, però col tempo ti accorgi subito, se uno è già fuori, e questo è di blasso di gestione, con gli effetti è ancora peggio, con gli effetti se, a parte se debbi 12,50 che è la banda stretta, se non avevi 27,85 non ti sentivo per niente. Infatti, no, è così, no, almeno non è che c'è orecchio e ti sei accorto subito che sta facendo male, no, ma io te lo stavo quasi per dire, qua, no, non è stazione così con voi, ma poi ci hai pensato tu automaticamente a mettere le cose in apposta, K, vediamo se è rientrato, che l'ho detto, avanti con lì. Ah, c'è il pellegrinello, tu. Che ci sono giornalmente, eccetera, eccetera. niente, io sto per parlare di qualcosa che può essere interessante, non ma per fare radio, per farci un questione, insomma, tutto qua. E niente, avanti a te e fai girare il cambio. Ma più non c'è, non senti su. Non l'avevo sentito, forse altrove l'avevo sentito. Comunque, tra l'altro, lui quell'antenna famosa che stavi cercando, te la fa Mario, capo? Se no te lo dico di telefoni, non la farà entrare quelle antenne. C'è altre antenne per macchina, dove ti, non lo so, vedi tu, ce la ributtate, c'è anche un miliardo che ti va bene, prima che ti vada non ti invito, non ti fa tutto niente. No, linea, io ce la faccio niente. Giù linea HF bastano che fa 0,30, anzi ne aggiù lui, non uno, io due, che tra l'altro sì, uno è sempre collegato, ogni tanto l'accendo per far scaldare le valvole, ma no, come sto usando. No, mi serve questa antenna che ho fatto vedere anche Antonio. Questa antenna non ci andiamo assieme, Antonio, è che non ho mai tempo di nulla, te l'ho promesso che passo a prendere, ci andiamo. Una sera che rientro presto, ti telefono e ci andiamo, perché mi serve solo stile a me. Se poi c'è anche l'attacco va bene, ma l'attacco intanto non lo utilizzo. Mi ho anche un altro attacco così, ho a farfalla nuovo col cavo e tutto, ma nella mia furgonetta, cioè nella mia, in tutte le furgonette che abbiamo noi, ci sono tutti quei muzzi. Adesso io ho chiesto a un'azienda, nessuno sa chi ha tolto le antenne, gli elettricisti non sanno niente, chi usava quelle macchine non sa niente, pare che le abbiano tutte staccate perché era scaduta la concessione del ponte che avevamo a Monte Alvaro, quindi avevano tolto tutti questi stili, nessuno sa dove sono stati messi questi stili, quindi ti immagini già di arrivare l'organizzazione. Ma che altro, erano bremi, erano una ventina, noi ci abbiamo 20 di queste macchine di ranch della Peugeot, una ventina ne abbiamo qui a Sassari, quindi non è possibile, su 20 macchine non si è avanzata un'antenna, boh, non vi credo io, o anche uno si è appigliato e si è rinudi, cosa ne so io. È sempre così, guarda che parecchie volte se tu ti fai un giro, come se c'è stata un bel tempo fa, che a volte quando finisco di così c'erano gli apparecchi perché ce li buttano nella bandezza, capito? Li portano giù al monte, li sono sbattati, i satellitari, tutti i cacciati addirittura. Anche con frequenze funzionanti, perché una volta mi hanno portato quattro apparecchi, ma di quelli. Ma non del VHF, lo accendo e non la frequenza dell'Enel. Allora mi cambia il zitto, mi sono finito questo spavento, io pensavo che non c'era manco un cane, ma gli chiamando per favore lasciare la frequenza del bene maldito. Ha un demonio era quel ponte. No, io ne ho ancora in dotazione, ce n'è uno a Monte Oro che fa da telecontrollo. Anche l'altra notte alle 3 del mattino mi ha squillato il telefono che c'era stato un calo di tensione e infatti non sono andato, sono andato alle 6 per ora c'è tutto a posto, evidentemente si era riarmato da solo il sistematore, mi sono collegato col telefonino di servizio a tutti gli impianti, se abbiamo impianti dove ci sono tutti i telecontrolli e ci sono anche le radio attaccate a questi telecontrolli, sono tutte radio civili, sono tutte della Uniden, tutte le Uniden con microfoni, tutte sono tutte radio civili, noi avevamo due frequenze assegnate 165-700 e 167-300 civili assegnate proprio un tanto di coso del ministero. Poi si hanno fatto scadere la concessione perché costava 20 milioni all'anno per tutti i ponti, per il ponte e per tutte le autorizzazioni nelle macchine, perché era civile, tu lo sai, dove è civile, quindi. E perciò si hanno fatto scadere la concessione e sono mattate tutte le valli e sono ancora negli impianti, in alcuni impianti ci sono. Non, infatti mi ha detto che le prendono, io ho un attore, le sistema e le mettiamo a posto, lascio la porta sotto, immagino di fermare il coraggio, gli faccio tutto l'ampato dell'olio invece mi aiuta la pulizia di si vuole. E le ginocchia tutte, ma non servono a niente, sono civili, c'erano solo due frequenze, perciò non me ne porto più nulla, qua vedete, c'è un base molto bello, che è quello che ha un coreale, ma non me ne faccio niente. E a metterlo in mezzo a cose belle, a cose funzionanti, tanto lì si non funziona, sono anni e anni fermi. Sul bianco di cloro, con i ventivi, si è rimaniato, pensa che non solo la cornice pura, pensa che i componenti all'interno si è rimaniato. Vai. Quindi ce li abbiamo, però non faccio niente. Ma di antenne, no, ne ho visto, manco la nulla di visto. Ma prima o poi già scopro perché l'hanno messo certe antenne. Le prendi a tu. Via. Vabbè, io riprendo per salutarvi, perché domani sarà la giornata lavorativa. Vi saluto, fate buon proseguimento di QSO e niente, ci sentiremo in serata o quando al più presto. Va bene, ciao, buon pugno, passa una buona volta anche tu e tutte le migliori, Claudia. D'accordo, ci aggiorniamo domani allora, qui ti faccio sapere quella cosa, perché ho telefonato ma non c'era nessuno, al telefonino mi ha ritrovato, comunque già ti aggiorno io, non c'è problema, ok, domani niente caffè e poi ci aggiorniamo domani sera per dopo domani, dai. Ciao, buonanotte, saluti a casa e ci sentiamo domani, KK, vai Antonio. Ciao, quando ci sentiamo domani sera, allora, quando vieni, là. Ho fatto da buon tutto, mi hanno prossimi mine. Sicuramente si avrebbero degli apparecchi nuovi. Cosa faccia? Sia il PD che il PMR. Non c'è qualche cosa, perché mio padre ne faccia tutto. Io ho un portatile mio, c'era veramente Antonio Falchetto, buonanotte. Io c'ho il mio portatile che fa tutto, non fa le UHF ma fa le UHF tutte proprio complete da 440 a 470 e poi fa tutte le LPD e tutte le PMR, è un buon ricetrasmettitore portatile 5 watt. C'è anche una buona portata, io quando me lo porto appresso, quando sono alla Ginara, camminando con l'antennino in gomma, parlo con Walter, con tutti, e non c'è problema, sia via Trasponder che via, ma considera che io sono dall'altra parte dell'isola, sia via Trasponder che anche via diretta in UHF. Già ci sono, questo l'avevo preso alla fiera di Genova, l'avevo trovato, ma se guardi in qualche rivista lo trovi, non c'è problema. No, quelli che ci abbiamo noi, che c'ho io tra l'altro, perché sono ancora collegati negli impianti che sto gestendo io, sono veicolari da 50 watt. Da 50 watt regolabili, da 10 a 50 watt, noi usavamo sempre 10 watt di potenza, era quello consentito allora per i civili, ma se poteva usare anche 50 watt intanto non controllava nessuno. Sono tutti veicolari della Uniden e sono solo UHF e due frequenze, capito, che sono canalizzati, sono quadrati, quindi ci sono i quadri da 167-500, 163-600-300, non mi ricordo, però sono quelli che servivano per parlare col ponte da macchina a macchina, che poi aveva usato la ESAF, una volta quell'ESAF è fallita, è entrata a manovra, ma si è fatto scadere la licenza, chi di Napa mantenì il ponte non via, 20 milioni all'anno, e quindi ci hanno fatto togliere tutto. Sono rimasti solo i telecontrolli in alcuni impianti, che andavano sempre con la VHF a frequenza del ripetitore, capito? No, a me mi sembra un veicolare più altro, per casa, poi portatevi a... Poi portatevi quelli LPT, gli altri bus ci sono poco prezzo, fanno tutto. Ho visto un modello che c'era Stefano, piccolino, grande quanto passa due sigarette, 100 euro, non busco quanto voglio. Capito? Sì, no, portatevi così, già si trovano. Non è un problema quello. Io i portatili ne ho della Icom, ne ho 3, 2.5 e 2.7. Portatili della Icom. C'ho tutti quelli del che tengo io in dotazione della Zofila. E sono sempre sotto carico, per quando usciamo li porto tutti appresso. E sono 6, 5 della Icom. Civili anche quelli, c'hanno una frequenza sola, una sola frequenza, molto belli della Icom, li avevo comprati io. E poi ne ho due, di cui quel UHF e l'altro un Vibanda che mi serviva quando facevamo il rally, secondo le postazioni, con un carico veicolare, sono molto vicino al primo intermedio. Ero molto vicino alla partenza, quando mi chiamavano potevo rispondere anche quello, a volte che sono andato con Natalino, che rispondeva a lui, tanto c'eravamo la stessa voce. No, il mio non è attivo, no. Risale, siamo battuto con il mio Natalino, vediamo la faccia la regga. Stavamo con la macchina di mia moglie. Comunque se mi capita, vedo un po'. Io come veicolare civile ne ho uno, sempre della Icom, però è a un quarto solo, digitale, ma è un quarto solo, che è quello più nuovo che avevo tenuto, che è quello praticamente che avevo nella mia macchina, ed è 163.050 mi pare. 163.050 la cosa, la frequenza, ed è nuovissimo, si può portare via e dopo svuotare. Capito Antonio? Se dovesse servire qua non ho problemi, c'è lo spinotto, il microfono è di quello proprio della Icom, quello che si infila con il quello più intatto. No, no, mi serve solamente l'istruzione base. Io per fare LPT e PMR. Poi per la questione della V, già lo sai che non c'è problema, perché a me piace la frequenza marina, sono abilitato, quindi vado di là, ma se ne è parlato tranquillo, già ti ricordo, se non avevo bisogno di nominativo e niente, perché da quando lavoravo con Marco Micchi mi è rimasto il nominativo fino adesso. E ce l'ho tuttora, quindi non c'ho nessun pericolo io. Sono abilitato per parlare con la frequenza là. E il resto certo è di più tutta parte di LPD al limite PMR che si vede va bene, non mi sembra più il momento, sto aspettando che mi arrivino una segna, per avere una segna quando mi piglio la roba, non è che sia che voglio la roba subito, capito? Poi come stazione fissa in coso mi basta ciò che ho, la mia attrezzo di 15-40 apparecchi che mi devo fare, mentre sono apparecchi che mi servono solo per lavoro, più che altro, capito? Anche perché quelli di merda che vedono la batteria dopo un'ora non c'è più nemmeno, vai a parlare dura un'ora, cosa ne vai? Ho 7 chilometri di fanno, però le batterie non tengono niente, dopo non c'è più niente, devi stare a parlare col muro. No, ma quelli lì infatti non c'è niente, no, io faccio sempre spenti, non mi interessa. Nelle PD posso parlare tranquillamente con quello grande, con il 706, con il quadribanda, posso parlare con il 27.55 sempre della Icom, anche l'altro, il 751, il 271, il base e moneta di V1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di V1, tutti veicolari di cui uno base della ICOM. Base proprio grande, più grande delle, grande quanto è l'850, per farti capire, dalla che grande così, comanda laterali, tutto, quindi proprio di quelle non ha giù di problema. Perciò puoi portare, ti ripeto, una cosa utile, perché la puoi portare in giro, cioè posso anche tenerlo in mano, me la fotti nuda, no? Non la di nuda nessuno, perché più da poco mi è arrivato il patentino, come la carta di credito, ce l'ho sempre nel portafoglio. Adesso ce li hanno modificati. Prima ci pagavano, invece chi è socioari gliela mandano normalmente. Me l'hanno mandata a casa. Mi sembra una patente di macchina, solo anziché essere c'è scritto Ministero delle Telecomunicazioni, la foto e il tuo nome attivo e da quando sei l'avviatore. Perciò posso anche camminare con quello in mano, me la frutta in un dama di niente nessuno. Non l'ho fatto male, non l'ho fatto male perché non mi interessa. Ti ripeto, l'ho fatto una nuova valasinata, ma se trovo quell'Antonio che ti ho detto, mi metto il veicolare in macchina, capito? E così ascolto anche altre cose che ci sono in bus, ho fatto tutto lì, le barche, in entrata, in uscita, ci sono cose interessanti, capito? Sì, a voi anni c'è una battuta interessante, ma di là si rivedevamo a comitini ogni giorno, io andavo spesso nella sera, sentivo la sera, ce l'avevo spesso prima, mi divertivo. Anche mi divertivo anche dietro, cioè l'avevo regalato, avevo uno Iaeso, il Fitti, mi sembra 212 RH era. Solo lui faceva male, era un demonio era. Arrivava nei punti di fronte a. Dove il tabacchino parlava con Giro Bandiere tra le tre stampe. Il 165 mi sembra 0,50, una cosa del genere. Ho avuto anch'io il 211 RH e il 411 RH, c'era il V e l'UHF, la coppia, come 711 e 811, la stessa cosa. Poi ne ho arrivato uno da Giampiero, io, Polo Torres, che non mi ricordo se della Iesu o della Lincoln, forse della Iesu, 711, FT 711. Quello è un mobile, lei fa da 140 a 170, infatti ce l'ha sempre già un po', digitale, tutto verde, bellino, veicolare, 25 watt, però quello non 50. Vabbè, quanto è? Canto 11 sono, chiamo le parole, non so, spengo il computer, spengo tutto, ci sono tutte le gire in radio, da Risetti, sono già 4 ore in radio, ho fatto anche troppo, giro. Ci sentiamo, comunque se tu hai la possibilità di sentirlo al Mario, o di vederlo, insomma, magari prima di me, chiedere a cazzo se c'è l'altra antenna, hai capito qual è? No, quella corta, quella spirale, quella che usava un tempo i carabinieri. Chiedere se ce l'ha. Se ce l'ha, me lo dici e scendiamo assieme, la prendiamo, capito? O se ti capita di girare agli IBC, da Fusano o da qualcuno, chiedi e fammi sapere che tu magari hai più tempo di me. Sì, ce l'ho perché li ho viste, me l'avevano cagate a me, me l'avevano dato due o tre, l'avevano regalate io, cazzo. Addirittura c'era una che faceva due e uno, ma era una bibanda era. Figurati, ce li ha. Domani lo vedo perché deve passare in campagna a trovarmi domani sera. Io ho già parlato, ho detto già guardava, siccome c'era la Santa Maria per le antenne, di paziente della Santa Maria, perché il professor Sanone che ne abbiamo nel laboratorio, quello c'è la Santa Maria giù, dove c'è il deposito, in epoca di Fravaglia lì. Allora la Santa Maria già glielo dico. Allora io ti faccio caricare in macchina, a me lo scudo, non di sera, non so, verso le 6:30. Tanto so al piazza, sono a riposo, ma la mattina ce la fanno sempre in commissione, andare in banca, andare al barbiere, devo fare un sacco di corsi, ma domani pomeriggio sono al piazza. Va bene, dai, ci aggiorniamo domani allora. Ciao Antonio, buonanotte, saluto a tutti quelli che sono in ascolto, buonanotte a tutti. E ciao, ci sentiamo domani, dai. Buonanotte a tutti.